punto, punto, punto e a capo. Una settimana di attualità. Una buona giornata da Anarita D'Ambrosio. Il ritorno in campo di Berlusconi, la cronaca con l'ennesima strage di immigrati, l'incidente in territorio francese che ha ucciso 9 sci alpinisti, la violenza su una turista ubriaca a Roma. Settimana, quella che si chiude, però dominata ancora dall'economia e chiusa dalla doccia fredda arrivata dagli Stati Uniti. Proprio mentre il premier Mario Monti atterrava in Idaho, negli Stati Uniti, per partecipare alla Allen Conference di Sun Valley, dove è riunito il gotha della finanza e del mondo dei media made in USA, Moody's ha tagliato il rating dei nostri titoli di Stato. Sull'Italia arriva una nuova tegola di Moody's che taglia di ben 2 scalini il rating sui titoli di Stato italiani, portandoli da A3 a Baa2, mantenendo un outlook negativo. Il clima politico aumenta i rischi, specialmente con l'avvicinarsi del voto della prossima primavera, spiega l'agenzia di rating, motivando il taglio con un deterioramento della situazione dell'economia, nonostante le misure e le riforme decise dal governo giudicate positive. Sul nostro paese, inoltre, sempre secondo Moody's, pesa il rischio contagio con Grecia e Spagna. È probabile che l'Italia sperimenterà un ulteriore netto incremento dei costi di finanziamento del debito, dice l'agenzia di rating, elencando le cause. Aumento della fragilità della fiducia nel mercato, rischio contagio da Grecia e Spagna e segni di un'erosione degli investimenti stranieri. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Penso che il nostro paese manifatturiero sia molto più forte di quello che appare nelle valutazioni di Moody's, il commento del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che anche in questi giorni ha lanciato l'allarme sul PIL in calo. Fa fatica a vedere miglioramenti per il 2012, il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Siamo in un momento tempestoso, spiega il leader degli industriali. Il PIL con il segno meno, un paese, l'Italia stretto tra burocrazia e fisco, una riforma del lavoro che non va. Io ho detto che eravamo sull'orlo dell'abisso, il professor Monti dice che siamo su un percorso di guerra, però comunque la situazione è molto difficile. Le proiezioni del nostro centro studi indicano un calo, nella migliore delle ipotesi, per il 2012 del 2,4% del PIL. È necessario rimare tutti dalla stessa parte, di fatto il ragionamento del leader degli industriali, una replica questa indiretta al premier Monti e alla sua bocciatura della concertazione, tema su cui torna anche il ministro Passera. Siamo tutti d'accordo che un uso distorto della concertazione in passato ha portato a decisioni molto negative per il nostro paese. Altro capitolo, la riforma del lavoro non è soddisfacente, va modificata, spiega ancora il presidente di Confindustria. La Fornero mi convinca del contrario, fa capire Squinzi. Da Via Veneto il ministro replica, lo faccio ogni giorno. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Rieccoci, ancora una buona giornata da Anarita D'Ambrosio. Crisi economiche a dominare anche queste settimane di luglio, settimane calde in tutti i sensi, anche meteorologicamente, con la solita Italia spaccata in due: da una parte il nord rinfrescato da qualche pioggia, dall'altra il sud alle prese con l'anticiclone Minosse ed i suoi 40 gradi e passa. Caldo non solo in Italia ma anche in altri paesi europei, non in Inghilterra dove tra breve cominceranno le Olimpiadi, invece si teme proprio per il meteo. Caldo però è anche in questo caso in tutti i sensi, soprattutto in Spagna, dove sono state presentate questa settimana pesanti misure di austerity e dove i minatori sono scesi in piazza a Madrid. Mercoledì ci sono stati violenti scontri nella capitale spagnola. In questo anno 2012 si sospenderà l'abono della seconda paga straordinaria. La più dura manovra dell'era post-franchista arriva il giorno dopo il via libera europeo ai primi 30 miliardi di ricapitalizzazione delle banche spagnole. Tra applausi e fischi tocca al premier Mariano Rajoy illustrarla al congresso. Aumento dell'IVA al 21%, taglio di 3 miliardi e mezzo nei bilanci delle amministrazioni locali, riduzione del 30% dei consiglieri comunali, eliminazione della 13ª natalizia per i funzionari pubblici. Obiettivo dichiarato: risparmiare 65 miliardi entro il 2014. La manovra sarà approvata domani ed entrerà in vigore subito. La situazione economica è allarmante, con un paese che quest'anno quest'anno rischia un calo del PIL pari al 2%. La manovra contiene pure una riduzione dell'assegno di disoccupazione a partire dal sesto mese, un taglio di 600 milioni dei costi di governo e nuove imposte ecologiche e sul tabacco. Fuori, tra le vie di Madrid, la protesta sociale si intrecciava con le decisioni del governo in un crescendo di tensione. Protesta incarnata dai minatori che manifestavano insieme ai principali sindacati contro il taglio dei sussidi. Nonostante una partenza festosa con migliaia di persone in piazza, la manifestazione è degenerata in scontri con la polizia, accusata di sparare proiettili di gomma ad altezza d'uomo. Il bilancio finale, 8 arresti e 76 feriti tra manifestanti e forze dell'ordine. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Crisi che morde in tutta Europa, crisi che mette in ginocchio il mercato dell'automobile. Sotto i riflettori due grandi marchi. Il gruppo Peugeot taglierà 8.000 posti di lavoro in Francia e chiuderà dal 2014 lo stabilimento di Aulnay alle porte di Parigi. Con il programma varato ieri diventano 14.000 i tagli all'organico annunciati dalla casa francese dal 2011. Le misure hanno immediatamente destato dure reazioni in Francia, dal presidente François Hollande, che si è detto estremamente preoccupato, fino al ministro del rilancio produttivo Arnaud Montebourg, che ha bocciato il progetto, e al segretario del principale sindacato del comparto, la CGT, che ha parlato di terremoto e ha annunciato battaglia. Peugeot è in grave crisi. Il forte calo delle vendite nel primo semestre in Europa e il calo dei prezzi hanno causato un'impennata delle perdite, fino a 700 milioni di euro. La divisione auto, inoltre, perde 200 milioni di euro di liquidità al mese. I benefici dell'alleanza in Europa con General Motors Opel arriveranno non prima di 4-5 anni. Per questo una riduzione dei costi è indispensabile. Peugeot non è l'unica azienda dell'auto in difficoltà. La stessa alleata Opel è nel pieno di un piano di riassetto e proprio ieri ha annunciato le dimissioni del numero 1 tedesco, che verrà sostituito da un manager americano. Andrea Malan, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è un grande marchio italiano che lascia invece il nostro paese, un marchio che ne ha segnato la storia economica. Dopo giorni di voci e poco convinte smentite, è ufficiale. Uno dei marchi italiani della moda più famosi al mondo non è più italiano. Valentino Fashion Group, che comprende la licenza M. Missoni, è passato per 700 milioni di euro alla Mayula For Investment, società del Qatar riconducibile all'emiro, padrone assoluto del paese, lo Sheikh Ahmad Bin Khalifa Al Thani. A vendere sono stati il fondo di private equity inglese Permira e la famiglia Marzotto, azionista di minoranza con il 20%, al fianco di Permira dal 2007, anno dell'acquisizione di Valentino Fashion Group. Un'operazione da 5,3 miliardi che in quell'anno pre-crisi Lehman Brothers stabilì un record assoluto in Europa e soprattutto per il settore della moda. La differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita non è legato solo alla crisi economica, ma anche al fatto che per ora in Qatar non finiranno gli altri due gioielli del gruppo, MCS Marlboro Classic e soprattutto Hugo Boss, che nel 2009 in occasione di un'operazione di ristrutturazione del debito fu scorporata ed è ora una società quotata a Francoforte con una capitalizzazione di 5,2 miliardi. Il futuro di Valentino è legato all'intelligenza degli investitori arabi, che dovranno salvaguardarne tradizione e fascino mantenendo la produzione in Italia e continuando a dare fiducia agli stilisti che ne hanno firmato il rilancio, Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli. Giulia Crivelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Punto e a capo. Lasciamo l'economia per la politica, settimana dominata dall'annuncio ufficiale, Berlusconi scende di nuovo in campo. Grandi manovre già in corso e Cavaliere è pronto a lavorare tutto agosto per rinnovare il partito dalle radici. Nome nuovo, volti nuovi, a quanto pare, e lo stesso Cavaliere a dieta ferrea per tornare indietro nel tempo. Torna perché a volte ritornano, anche se non se n'era mai veramente andato. Dopo la batosta delle amministrative, Silvio Berlusconi riunisce i suoi a Palazzo Grazioli, scende di nuovo in campo, seppellisce in un colpo Angelino Alfano, cancella ad un tratto le primarie e si candida di nuovo a Palazzo Chigi. Esulta il popolo azzurro, Giancarlo Galan alla Zanzara paragona la notizia ad un orgasmo. PDL, Forza Italia, Forza Silvio, ancora un'incognita il nome, ma il Cavaliere pensa ad un ticket con una donna, chissà, magari Daniela Santanchè. Così Fabrizio Cicchitto. Sì, Berlusconi candidato premier, abbiamo esaminato fondamentalmente i problemi che riguardano il partito. Nel momento in cui c'è Berlusconi non si pone il problema delle primarie. Ironia e scetticismo sul web e nel mondo politico, il presidente della Camera Gianfranco Fini. Io credo che gli italiani abbiano compreso che non è più tempo di promesse miracolistiche. Il segretario della Lega Nord, Roberto Maroni. Oh, Altre questioni di cui occuparmi adesso, prima delle alleanze, sono all'ultimo punto dell'agenda per quanto mi riguarda. Conoscendo l'uomo non mi stupisce per niente. Il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, la prende sul personale. Almeno adesso daranno addosso a lui e non a me. Il Cavaliere è già a dieta, con il primo obiettivo, perdere 10 kg entro l'estate. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Rinnovamento in vista anche nel Milan con Ibrahimovic e Thiago Silva che andranno al Paris Saint-Germain. Non ancora convinto lo svedese, ma Berlusconi ha dato già l'annuncio. Un ritorno in campo, quello dell'ex premier, che come detto è stato salutato più che positivamente dentro il PDL. Con entusiasmo l'ha annunciato sempre mercoledì scorso Daniela Santanchè al microfono del nostro Alessandro Milan a 24 Mattino. Io lo dico da molto tempo che Berlusconi è il nostro candidato premier. Noi non abbiamo nessuno di meglio di Silvio Berlusconi. Io auspico politicamente che sia lui, perché vede, sino adesso le discussioni, le cose all'interno anche nostro del PDL ci lasciano un po' distanti dalla gente, dal popolo. Berlusconi invece è sempre col popolo, è in sintonia. Sento lo spirito di allora, quando c'era Forza Italia, dice Giancarlo Galan, ex presidente della Regione Veneto ed ex ministro dei beni culturali alla Zanzara. No. Ho capito che lei oggi gode come un pazzo a queste. Ma come mai? Dica la verità, quanto era tanto che non godeva così, dica in tutti i sensi. È abbastanza vero. Eh? Devo cioè, dire è meglio di un orgasmo. Mi dica meglio di un orgasmo. Sì. Come no, sì? No. Sì. Molto di più perché. Erano anni che non godevo così. E dura moltissimo. Il fatto di vedere, per esempio, tutti quelli che avevano già impostato la loro vita, la loro carriera, le loro speranze. Se la sono presa nel. Ecco, come si dice a Eton, se la sono presa e li vedi sedere. Tutti preoccupati. Sì. Ma chi è più preoccupato? Che ce n'è tanti. No, però basta facciamo andare, i nomi. Il primo è preoccupato. Ma basta, leggere, ad esempio. Ma basta leggere le dichiarazioni. Sì. No, basta tirarle fuori adesso con internet, si tirano fuori con grande facilità. Sì. E basta vedere tutti quelli che esultavano. Sembrano tutti contenti dell'ascesa in campo. Adesso sì. Sì. Perché pensavano di aver seppellito il nonno, no? Perché pensavano che non ci fosse più quel problema. Perché con Berlusconi, in realtà con Berlusconi che torna, tutti a casa, molti a casa. No, spero di sì, qualcuno. Spero. Insomma, ma chi, se c'è ad esempio? Un po', chi? Quelli che avevano, guarda, neanche se mi torturi farò un nome. Sì. E perché? Ma tutti quelli che, ormai si erano impostati, avevano relazioni, amicizie quelli che hanno in mano il partito, senza Berlusconi. Quelli che hanno in mano il partito. Quelli che speravano di averlo domani. PDL stretto intorno all'ex premier, fronte opposto alle prese questa settimana, anche con una strana e poco piacevole storia che ha visto coinvolto Antonio Di Pietro. Era una bufala, per fortuna, la notizia circolata su Twitter e rilanciata da un quotidiano sardo, secondo la quale il leader dell'Italia dei Valori sarebbe stato colpito da un attacco ischemico durante una vacanza in Sardegna. Sto benissimo, la rassicurazione del diretto interessato. Grazie a Dio. Sto benissimo, sono a Roma, sto andando in aula dove spero di poter far sentire la voce di quegli italiani che credono nell'Italia dei Valori. Quindi nessun attacco ischemico, nessun ricovero in ospedale? Grazie a Dio, nonostante tanto lavoro e tanta fatica, ma che il Signore continua ad assistere la mia salute come l'ha assistita finora. Questa vacanzina in Sardegna, il weekend, non ha avuto nessun problema? No, sono stato con mia moglie ed alcuni amici, abbiamo fatto 2 giorni di riposo, unendo l'utile al dilettevole, perché in realtà sono andato prima a fare un paio di manifestazioni con il partito, questo il venerdì e il sabato mattina, poi già che c'eravamo abbiamo approfittato, ci hanno fatto vedere questo splendido posto che si chiama Tavolara e questa splendida ospitalità del popolo sardo che ha fatto molto felice mia moglie. Ma quanto possiamo fidarci di Twitter e della comunicazione sul web? Un commento dal sociologo Guido Martinotti al microfono di Anna Migliorati. The democracy is stupid, no? Cioè, quando tu hai un'informazione totalmente democratica, invece di una piramidale dove ci sono dei controlli, e nella comunicazione totalmente democratica come Twitter, che è carino per quello, insomma, ognuno dice quello che vuole, vale la regola, caveat emptor, cioè se l'acquirente non è minimamente sospettoso, si fa lui stesso, diciamo, eco e promotore e ingigantitore di una notizia che non è controllata. Un po' la piazza globale ha avuto tanti nomi, il primo che l'ha scoperto è Lazarsfeld negli anni 40 e si chiama Two-Way Flow of Communication, cioè la comunicazione viene sempre rispedita da qualche ritrasmettitore. Il quale ritrasmettitore ottiene una sorta di vantaggio dal essere riconosciuto come persona in possesso di un'informazione autorevole, no? Questo è il meccanismo. Questa tecnica favorisce enormemente il cicaleccio irresponsabile, perché non c'è nessuno che controlla, a poco si svilupperà, come dire, un'utenza più responsabile dal punto di vista di quelli che, insomma, non vogliono proprio farsi prendere in giro al 100%, ecco. Ancora una buona giornata alla settimana che si conclude, dominata dalla crisi economica, abbiamo detto, e dalla discesa in campo di Berlusconi. Una settimana però anche di cronaca, caratterizzata da alcuni pesanti episodi, a partire dal più grave incidente degli ultimi anni avvenuto in montagna. Pesantissimo il bilancio. 9 sci alpinisti morti sul versante francese del Monte Bianco. Altri 4 salvi, in un primo tempo dati per dispersi. Le vittime sono 3 scalatori inglesi, 3 tedeschi, 2 spagnoli e 1 svizzero. I feriti sono stati 11. Il maresciallo Delfino Viglione, comandante del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Courmayeur, ha spiegato così la dinamica della valanga al microfono di Paolo Panceri. L'idea che ci siamo fatti per quanto concerne la disgrazia è che il vento dei giorni scorsi e abbia in qualche modo fatto degli accumuli particolari, no? In alcune zone particolari del pendio, e con forse una caduta verso il basso di un seracco abbia innescato questa valanga, non di grosse proporzioni, ma per comunque poi interessato questo pendio dove erano presenti questi alpinisti che salivano verso il Col Mudì a 4.400 metri. Può esserci stata da parte loro una disattenzione, una sottovalutazione? No, lo escludo in una maniera più assoluta, perché comunque è un classico itinerario dove centinaia e centinaia di cordate percorrono questo itinerario durante il periodo estivo, anche a volte anche nel periodo primaverile. Il percorso è quello, la montagna è quella che è, quindi si fa un'attività a rischio e questo lo si sa, quindi non dico che sia fisiologico che ogni tanto accada, però con la massa di persone che ci sono può accadere. È successo 2 anni fa al Tacul, qualche anno prima alla Tour Ronde, e quindi può capitare che venga giù un seracco che è difficile stimare la grandezza, la quantità di neve che può provocare e quando viene giù, perché sono proprio delle previsioni come quelle del tempo, a volte non prevedibili, ecco. Ancora al microfono di Paolo Panceri i dettagli di un'altra brutta vicenda, l'ennesima tragedia dell'immigrazione. Un solo sopravvissuto tra i 55 migranti morti disidratati dopo 15 giorni in mezzo al mare su un gommone partito dalla Libia e diretto in Italia. Laura Boldrini dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati ha così ricostruito la vicenda. L'abbiamo saputo dalla Guardia Costiera tunisina e i nostri colleghi a Zarzis sono andati a visitare in ospedale questo superstite e l'uomo, che poi è un giovane di 25 anni, ha raccontato quanto è accaduto. Dice che l'imbarcazione è partita dalla Libia negli ultimi giorni di giugno, che erano in 55, che hanno appunto navigato verso le coste italiane, ma a un certo punto però hanno avuto problemi all'imbarcazione, al motore, e che la loro deriva è durata circa 15 giorni senza che nessuno si sia avvicinato a soccorrerli. Dice anche che i compagni sono morti perché nessuno è stato autorizzato a portare a bordo acqua e dunque il problema principale è stata la mancanza di acqua. Lui si è salvato, ha bevuto le sue urine, ha bevuto acqua del mare, ma anche lui adesso è ricoverato e sta in condizioni abbastanza critiche. Lo hanno trovato alcuni pescatori che poi hanno segnalato

Annalisa Merra è la responsabile dei volontari dell'associazione e operativa nel campo della protezione civile di Finale Emilia. Hanno imparato a conoscerci, quindi cominciano anche a raccontarci le paure di rientrare a casa, la paura che hanno avuto e raccontandola in qualche modo appunto cercano di affrontarla. Tra poco parleremo della settimana degli spettacoli sul fronte della cultura. Da domenica scorsa c'è da segnalare che l'inserto culturale del Sole 24 Ore pubblica a puntate un romanzo di Vincenzo Cerami, uno scritto inedito. Le varie puntate di A tutti i costi terranno compagnia per tutta l'estate ai lettori del domenicale. Sentiamo Cerami al microfono di Alessandra Tedesco. Ho trovato un'idea meravigliosa, intanto perché viene da una lontana tradizione, i giornali hanno un po', negli ultimi tempi non lo fanno più, un tempo lo facevano, riuscire con dei d'estate, con dei racconti lunghi, a puntate che tengono il lettore nella suspense, sapere come va a finire. Poi la lettura domenicale, specialmente d'estate, è piacevole. Poi anche una lingua un po' particolare è quella della letteratura per un giornale, quindi c'è anche una novità di scrittura, un racconto, insomma è un viaggio dentro un mondo, tenendo poi conto che grandissimi scrittori, non so, come Dickens, scrivevano a puntate i loro capolavori. È stata pubblicata solo la prima puntata, sì, di questo romanzo. Ci può, sì, dire a grandi linee quali sono i personaggi, di cosa parla, senza svelare un po' troppo? No, se svelo è finito tutto, è proprio a puntate. Ma io in realtà i personaggi sono andati a prenderli nella umile Italia, come avrebbe detto Pasolini, cioè nel ventre molle del nostro paese, pescare così dei personaggi che vivono e che cercano di essere felici, un po' periferici, vivono nella periferia, lo stile è un po' quello carveriano, diciamo, questo scrittore americano, la Carver, che descrive l'umanità, diciamo, periferica, un po' immersa nella metropoli, no? Oppure nella provincia più buia, così. E i personaggi sono né più né meno che una coppia di sposi innamoratissimi, sono innamorati. Lui è un po' bruttino in verità, però ha avuto la fortuna, una fortuna nella vita, di aver sposato una donna bellissima. L'unico piccolo neo, che poi di piano piano può diventare una cosa un po' più grave, è il fatto che purtroppo il destino gli ha dato come regalo questa donna meravigliosa, ma contemporaneamente però gli ha dato anche un problema fisico, nel senso che non può aver figli lui. Allora lei accetta questa situazione, lui invece coglie nei sorrisi di lei, mano a mano che il tempo che passa, un po' di amarezza, un po' di spleen, un po' di malinconia, come se le mancasse qualcosa. Ben ritrovati, chiudiamo il racconto della settimana tra pochissimo, come detto, con gli spettacoli. Prima però un addio, quello ad una voce storica del giornalismo sportivo italiano. Un nostro azzurro esattamente Oriari, che stava per avanzare, dove ricevuta la palla, punizione battuta, irrompe Gentile sulla destra, parte il tiro, rete! Rete degli azzurri, con Cadrini, Rossi ha portato in vantaggio l'Italia. E molti di voi lo avranno riconosciuto, l'addio è ad Alfredo Provenzali, scomparso nel giorno del suo compleanno a 78 anni. Era la voce storica di tutto il calcio minuto per minuto e di molte cronache sportive, tra le quali anche le Olimpiadi in Messico del 1968. Punto e a capo. Ora, come detto, la pagina degli spettacoli. Parliamo innanzitutto di cinema, che scalda i motori per la prossima stagione. Nei giorni scorsi a Lipari la 20th Century Fox ha presentato in anteprima L'Era Glaciale 4, che uscirà in Italia il 28 settembre. A doppiare Sid è sempre Claudio Bisio, lo ha intervistato la nostra Marta Cagnola. L'abbiamo visto insieme a voi giornalisti, un'anteprima prima di tutti gli italiani che lo vedranno il 28 settembre, non prima ai loro. Invece noi ce lo siamo visti in 3D con gli occhialini, perfetto, e ci siamo divertiti, io mi sono emozionato, mi sono divertito, veramente parlo da spettatore, al di là del fatto che abbia doppiato Sid, con delle soddisfazioni personali particolari quando ogni battuta di Sid entrava, arrivava, anche le gag disegnate, fatte, previste da sceneggiatori, per carità, erano quasi impossibile che non entrassero, ma mi sono stupito positivamente nel vedere che anche alcuni giochi di parole che c'erano nell'originale, ma noi abbiamo dovuto reinventare in italiano, non so, il cattivo di turno, il panno fino, questo scimmione dice la collera, e lui si dice c'hai il colera? No, collera, ho detto Ecco, cito un esempio a caso, no? Che in originale era ovviamente diverso, però abbiamo tenuto questo gioco di parole e arriva, la gente ride, dove speravamo e pensavamo che ridesse, ride, e io rido insieme alla gente. Quanto ti fanno bene le risate delle persone? In questo periodo più che mai sono preziose. Tantissimo, perché come dice il mio maestro Dario Fo, senza fare gara tra drammaticità e comicità, però... Per capirne anche la differenza, la comicità, cioè la risata, passa sempre attraverso il cervello, delle sinapsi, cioè un ragionamento, mentre invece il pianto dello spettatore, sto parlando, passa attraverso un'emozione, uno stato d'animo, quindi il cuore, cioè proprio fisicamente sono collocati in modo diverso. E quindi questo fatto che passi attraverso il cervello la risata vuol dire che uno, anche inconsciamente, anche in un nanosecondo, riconosce una situazione, la decodifica. E dall'errore, perché la comicità nasce sempre, la perfezione non fa ridere mai, cioè una cosa bella, armonica, fa ridere la disarmonia, l'imperfezione, la bruttezza, il brutto anatroce, cioè gli inciampi, uno che cade, cioè, no? E qui, però a volte sono anche immediate, ma passano sempre attraverso una codifica e decodifica di quello che dovrebbe essere la perfezione, realizzare che questo non è, ridere su quello che è accaduto. Quindi quando ci sono anche le risate involontarie, appunto uno che cade scivolando su una buccia di banana fa ridere suo malgrado, invece quando sei tu a costruire una situazione comica e quando vedi che questo succede riesci a farlo, è un piacere quasi da ingegnere, ti senti un architetto, no? È bellissimo. L'estate però è anche una stagione di set. Tra i film che si stanno girando per la prossima stagione cinematografica, l'opera prima di Bruno Oliviero, La variabile umana. Nel ruolo di un ispettore di polizia stanco, nonché padre in difficoltà, Silvio Orlando, che ha presentato il film a Milano nella scuola Paolo Grassi. Padre. Insomma, siamo nell'età in cui cominciamo a fare i padri, i maestri e quelli alla fine un po' di un percorso che possono insegnare qualcosa, ma non hanno nessuna voglia di insegnare niente a nessuno, non credono più in niente, ecco, quindi questo è un personaggio un po' così, e non crede più nella giustizia, nei metodi della giustizia, né pratici né teorici, e quindi si è richiuso in un suo bozzolo, nel suo ufficio dal quale fa queste ultime indagini con la speranza di andare in congedo. Però essendo dotato di un certo fiuto, abbastanza indispensabile per la squadra omicidi, e quindi ogni tanto lo richiamano, e questo ultimo caso sarà un punto di non ritorno per lui, ecco. Tra il poliziesco, ma insomma anche un film che indaga sui rapporti umani, doppia indagine? Sì, poi le seconde indagini che hai raccontato sono quelle un po' più difficili da fare, perché poi quando i colpevoli sono gli altri è sempre un po' più facile, quando poi il colpevole lo scopri molto vicino a te o addirittura dentro di te e la casca l'asino, come si dice. Come il discorso che facevamo prima in conferenza, no? È difficile ricostruire un paese se uno addossa sempre le colpe agli altri, e quelli sono così, e questo sono pure assunzioni di responsabilità giuste, ma cominciare da noi stessi, ecco. Però bisogna anche partire da alcuni punti fermi, come avere un po' fiducia anche in alcune istituzioni. Sì, appunto, quello dico, cioè non c'è una istituzione che si salva e un'altra che è popolata da mostri, siamo tutti in una zona grigia in cui abbiamo come compagni di banco, come compagni di scrivania, come compagni di lavoro, persone che possono fare il bene e il male, e noi stessi possiamo fare il bene e il male, quindi bisogna partire da noi, ecco, assolutamente. E questo suo legame con Milano, ne parli con grande affetto? Soprattutto grande riconoscenza. Milano è una città che mi ha accolto veramente nulla tenente, e con un briciolo di talento, e questo talento l'ha fatto esplodere in maniera clamorosa, e smandato questo calcio nel culo che ancora dura oggi miracolosamente, ecco, per cui è qui che si prendono i bei calci nel culo che ti aiutano. Estate, tempo di festival di tutti i tipi, da quelli letterari a quelli musicali, dalla poesia alla filosofia. Da ieri è in corso a Barolo, in provincia di Cuneo, Collisioni, un festival che mette insieme diverse forme di cultura. Per la letteratura l'americano Don DeLillo e Niccolò Amanniti, per il cinema Pupi Avati e Carlo Verdone, per la musica i Subsonica e il concerto di Bob Dylan, l'unica data italiana. Il festival ospita gratuitamente 400 giovani da tutta Italia che dialogano con gli ospiti della manifestazione. Alessandra Tedesco ha intervistato il direttore del festival, Filippo Taricco. È un festival che nasce proprio dall'idea del crossover, cioè nasce dall'idea che ormai oggi è molto difficile vivere distaccati, cioè molto difficile intendere la narrazione come letteratura, come musica, come cinema, no? Perché ormai voglio dire, i festival hanno delle formule sempre più vecchie di quello che è la realtà. Ormai un ragazzo si sveglia al mattino, va a scuola, fa una lezione sul Purgatorio di Dante, poi arriva a casa, si scarica un pezzo rap e la sera guarda una puntata di Lost in televisione su Fox. Quindi ha una diciamo assaggio e si nutre di narrazioni molto diverse per forma l'una dall'altra. E non è strano per lui fare questo passaggio. I festival, come erano concepiti tradizionalmente, erano festival di qualcosa, erano festival della letteratura con quel mood tipico un po' ingessato, un po' cattedratico del festival di letteratura, oppure festival di musica intesi come concerti che vivevano solo la sera, ma dove le persone si incontrano poi alla fine al botteghino 10 minuti prima che si spenga tutto e si accendono i riflettori sulla musica, oppure festival di cinema come rassegne fatte in posti chiusi. Ecco, noi abbiamo cercato un po' di sparigliare le carte, fare un festival fresco, nuovo, come dice il titolo appunto, Collisioni, dove da una parte la collisione è rappresentata dall'interagire di arti diverse, nell'ottica di una modernità che ormai ha perso i generi, ha perso gli schemi che potevano essere validi anche soltanto 30 anni fa. Dall'altra le collisioni sono proprio il fatto di fare un festival di grandissima partecipazione popolare, dove da un lato uno ha i programmi main, al primo concerto italiano di Patti Smith per il suo tour Banga, l'unico concerto italiano di Bob Dylan, però anche vicino le band giovani che suonano, magari band di diciottenni che non hanno un posto dove suonare, hanno suonato sempre nei garage fino alla domenica prima e lì hanno un palco, un bel palco dove potersi esibire. E finisce qui l'appuntamento settimanale con Punto e a Capo. Una buona giornata ancora da Anna Rita D'Ambrosio.